lo fanno correre da Ponzio a Pilato. Il cavaliere Ignazio Xerri, tutto zucchero e miele, è naturalmente fauso, che uno lo capisce da come mette le mani, da come si ingiarma a guardarsi la punta delle scarpe. Sul serio, don Nenè, sono mortificato, ma ho i magazzini vacanti. Al suo posto, provare per provare, farei un salto da Michele Navarria. E don Michele Navarria, incazzato come era sempre per niente, magari perché il sole spuntava il mattino e calava la notte. No, manco un grammo di sulfaro. Ho i magazzini sciutti all'osso, don Nenè.